Nel video, alla domanda se Bordini abbia creato attraverso le sue scritture, in poesia e in prosa, una sorta di macchina che, mentre disfa nel suo farsi i testi, ne sottolinea l'incompiutezza, decostruisce anche la macchina dei generi, o comunque li attraversa, li mette in crisi, o inizia a non considerarli più delle gabbie, o a proprio a disinteressarsene, sostanzialmente. Ecco, a questa domanda la risposta di Gianluigi Simonetti a proposito del invece intenzionale inserimento del romanzo in poesia, quindi l'inserimento dei motivi della gelosia, del denaro, delle banalità quotidiane, mi trova non d'accordo, mi trova in disaccordo piuttosto netto, perché Bordini sostanzialmente agisce proprio quando fa queste cose, esattamente nella linea della sovversione dei generi, della scelta del non romanzo, ma del frammentario, inteso proprio come nemico frontale del romanzo, del breve, della forma breve, per esempio, o della forma fiume fatta di frammenti brevi, che ha, diciamo, costellato tutta la storia della poesia degli anni 70, che è una storia che riguarda fino a un certo punto la neoavanguardia. Sicuramente viene da quelle radici, viene sicuramente dall'esperienza della neoavanguardia, ma se ne distacca anche in maniera netta con figure come Adriano Spatola, ma più ancora Corrado Costa o Magdalo Mussio. Si parla di scritture che convocano sulla pagina proprio una sovrana indifferenza ai generi letterari. Pensiamo a un testo di Corrado Costa come Il fiume, oppure ai suoi Complete Films. È difficile pensare che un discorso come quello di Complete Films o come quello del fiume possa non riguardare anche il lavoro di Carlo Bordini. Ricordiamo, e Silvia Bordini, la sorella di Carlo, lo dice in quel libro meraviglioso che ha dedicato alla casa editrice di cui Carlo è stato cofondatore, Elia Lelia. Ricordiamo che le riunioni di redazione dell'avventura editoriale di Elia Lelia si svolgevano a casa di Daniela Rossi. Quindi si svolgevano a Parma e si svolgevano in quell'ambiente emiliano che Carlo conosceva bene, quindi, e con rapporti continui anche con quell'ambiente, che comprendeva tutta una serie di autori non classificabili, ma non classificabili spesso proprio per le ragioni appena dette, cioè perché cercavano di tenersi fuori dal romanzo concepito in un certo modo e anche dalla natura predatoria del romanzo nei confronti delle forme minori, tra virgolette minori. Ora, questo voler necessariamente sganciare la scrittura di Carlo Bordini dalla sperimentazione e dalla post-neoavanguardia e anche da tutte quelle esperienze che lui non ha probabilmente conosciuto in maniera diretta, ma che indirettamente lo riguardano in maniera quasi da carta carbone, esperienze francesi, ecco, a me sembra francamente una posizione da rivedere, da cercare di osservare attraverso il filtro dei vari saggi e vari interventi che non soltanto io mi sono preoccupato di scrivere e che evidenziano come Carlo Bordini avesse perfettamente coscienza di muoversi in un territorio che in Italia era sostanzialmente, si era sostanzialmente interrotto all'altezza della fine degli anni 70. Un territorio che quindi era, diciamo, con i primi anni 80 e soprattutto con l'arco degli anni 80, un territorio che era stato disertato da molti scrittori che si sarebbero, diciamo così, rovesciati nel contrario di quello che avevano scritto, che avevano elaborato nel decennio precedente, e purtroppo anche un territorio disertato proprio per la banalissima morte fisica di molti, appunto, importanti autori del versante sperimentale. Quindi in questo vuoto, in questa assenza, pur mantenendo comunque dei contatti con chi era ancora in attività, fortunatamente, Carlo Bordini ha fatto una sua strada che è difficile, testi alla mano, non vedere omogenea, omologa, vicina al lavoro di altri autori. Io non riesco, veramente, nella maniera più sincera possibile, lo dico, non riesco sinceramente a vedere questa distanza abissale tra Bordini e Christophe Darcos. È proprio impossibile. Oppure alcune cose di Jean-Michel Espitalier, che sono sostanzialmente un testo come Materia Medica, che non è il solo scritto da Bordini in quel modo. No? Con prelievi da materiali preesistenti. È impossibile non vederlo, non percepirlo scritto e pensabile da un autore operante in Francia tra l'inizio e la metà degli anni 90, forse anche prima. Ecco, questa esortazione alla comparatistica, se vogliamo, io mi sento di sottolinearla in maniera particolarmente energica, proprio perché credo che di sperimentalismo e di, ricerca letteraria si stia in maniera forse eccezionalmente, eccessivamente, legata alla neoavanguardia, parlando in questi ultimi tempi, ma forse tempi che sono ormai di lunga durata. Non esiste soltanto la neoavanguardia italiana, esistono anche le sperimentazioni letterarie francesi, statunitense, canadesi, eccetera, alle quali fanno poi riferimento autori che, è inutile dire, in Italia hanno prodotto dei materiali che sono di prosa in prosa, non di poesia in prosa. Ma su questo possiamo anche dibattere lungamente, ma è molto meno importante, secondo me, che affrontare la figura di Carlo Bordini juxta propria principia, secondo veramente le linee che hanno condotto la sua sempre dubitante e per questo in ricerca pratica di scrittura. Una pratica di scrittura che poteva anche essere incosciente di quello che succedeva in Francia, ma assolutamente non lo era di quello che succedeva nella ben più vicina Emilia che lui frequentava. Insisto nel far riferimento alla esperienza appunto di Elia Lelia e insisto nel sottolineare il lavoro da lui fatto con i frammenti materiali raccolti come una calamita raccoglie da sotto il foglio i vari sparsi pezzi di metallo che sul foglio qualcuno deposita. Nel parlare, se non sbaglio, di poema inutile, e in occasione di una lezione a cui lo avevo invitato a Lupter qualche anno fa, Carlo Bordini parlò proprio della genesi di quel testo. Sostanzialmente nato a ridosso di un trasloco che era quasi ultimato. Rimaneva la sua scrivania, sulla quale erano fogli di tutti i generi con appunti sparsi davvero annotati nei più diversi momenti della sua storia recente, e lui in quel momento, in quella circostanza, in quell'occasione, ha messo insieme i pezzi che materialmente si trovano sul suo tavolo. Ecco, questa operazione di legamento di materiali eterogenei è un'operazione che può anche essere infinitamente distante dalle frasi estratte dal cappello dadaista, ma non è così lontano dalla pratica di Annibale Estrini, ad esempio. Alcuni testi di Carlo Bordini sembrano addirittura fratelli di, o comunque sicuramente affini al discorso soprattutto di Balestrini, più ancora che di altri autori dell'avanguardia, della neoavanguardia. Che lui si sia sentito e abbia dichiarato una distanza radicale dalla neoavanguardia è assolutamente comprensibile anche per ragioni generazionali, ma il fatto di allontanare da sé alcune o anche tutte delle pratiche neoavanguardistiche, però utilizzando alcune di queste pratiche, non comporta una dismissione dell'osservazione del testo in quanto così formato. E se è stato formato, e l'autore stesso lo dichiara, attraverso un assemblaggio di materiali, attraverso, ritorno all'esempio di materia medica, ma chiaramente non è il solo, o attraverso il prelievo di testi precedenti, con pochissimi interventi autoriali, ecco, questo fatto qui ci mette un po' di fronte alla necessità di osservare una pratica di scrittura e degli esiti, dei risultati di scrittura, che sono perfettamente omogenei e omologhi di un lavoro svolto anni prima dallo stesso Balestrini e che è continuato negli anni e che poi trova parentele profonde, ecco, qui bisogna effettivamente dirlo, con scritture fatte contemporanee a Bordini, ma contemporanee anche al Balestrini precedente e successivo, nel resto del mondo, nel mondo occidentale, certo. Abbastanza incomprensibile come questo non riesca evidente proprio alla lettura semplice dei testi appunto di Bordini in parallelo con altri autori. Dove anche per esempio il problema del cosiddetto problema dell'io sparisce completamente. Nei saggi di letteratura interrotta di Denis Roche, per esempio, di cui è uscita soltanto una piccola selezione, anzi, saggi di letteratura arrestata, presso un editore, un piccolo editore che si chiama Atlete, e credo che sia una edizione ormai introvabile, ma non molti anni fa, con una prefazione di Luigi Magno, ecco, Denis Roche non si perita assolutamente di dire io, come non è un problema per nessun altro, non è un problema per Nathalie Quentin più recentemente, non era un problema per Christophe Tarkos, il problema non è mai a livello grammaticale, il problema è a livello della preprogrammazione del risultato estetico da una parte e della preprogrammazione del percorso che il lettore deve fare verso il risultato estetico dall'altra. Bordini non può fare nessuna delle due cose perché lui stesso non sa quale frammento gli capiterà in mano sul tavolo, no? Cioè, nel momento in cui lo trova, poi lo assembla in maniera saggia, ma sicuramente provvisoria. e così non preprogramma neanche la risposta del lettore. Ed è inoltre la sua posizione un non plus ultra della precarietà. Ma questa precarietà ha un nome e si chiama ricerca. Si chiama ricerca letteraria, è il non conoscere nel farsi del percorso i passi che seguiranno, perché i passi che seguono sono esattamente quelli che ancora altri non hanno fatto in quella direzione e che i materiali stessi, gli oggetti, dettano. Quindi da una parte ci sono gli oggetti, da parte c'è un anarchico soggetto dell'inconscio, non un io, ma in questo non c'è un io. Poi quel soggetto nel suo verbigerare o raccattare frammenti può anche tranquillamente usare il pronome di prima persona singolare o qualsiasi altro pronome. Non è questo quello che conta, anche perché lo assume come oggetto, tra l'altro, e non come il soggetto dell'inconscio. Paradossalmente non ha nessun parametro razionale cui appigliarsi per darsi l'aria di conoscere già dove andrà a parare quello che lui produce. Credo che questo sia un po' tutta una serie di osservazioni che mi è difficile non mettere in campo, difendendo una persona con cui io ho condiviso pranzi e cene e dialoghi lungamente e dalla quale ho sempre imparato appunto a dubitare del testo e sempre a ricercare quello che il testo stesso, prima ancora della mia operazione, dice. In questo ponendo in qualche maniera l'inconscio all'esterno del ristretto perimetro di me che parlo. Ecco, questo è il mio contributo, vorrebbe essere il mio contributo a uno studio dell'opera di Carlo Bordini, liberata dalla volontà di ingabbiarlo in una lirica lirica, così come anche dalla volontà di ingabbiarlo in una esclusiva temperie sperimentale. Carlo non ci si sarebbe trovato a suo agio, ma non avrebbe trovato particolarmente interessanti neanche degli inquadramenti che lasciassero completamente fuori un aspetto importante della sua pratica di scrittura. Una pratica di scrittura di assemblaggio, di cut-up, di fold-in e di collage. E è un fatto, lui ne ha parlato in tante occasioni, è evidente dai testi e mi sembra difficile negarlo, senza in qualche maniera rinnegarlo. O meglio, rinnegare non la pratica di scrittura, ma rinnegare appunto l'identità effettiva di Carlo.